Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, settimana che si chiude molto bene per il sottoscritto, visto che l'Hellas Verona va in A, ma si chiude male come sempre venerdì, perché avremo la poco invidiabile classifica di Focus Economia, anche oggi ricca, ahimè, di elementi. Per quello che riguarda gli altri temi, ci occuperemo della riforma Madia, nel senso che c'è stato un altro passaggio in Consiglio dei Ministri. Le assunzioni mirate, il piano straordinario per i precari storici, stop i premi a pioggia ma saltano le gabbie sulle pagelle, sanzioni per i furbetti del weekend lungo, visite fiscali a INPS, ne parleremo perché riguardano poi in qualche modo anche alcuni temi che trattiamo nella nostra classifica. E poi parleremo invece di quello che ha anticipato solo 24 ore ma ahimè trova conferma, mi riferisco alla situazione sulle banche Venete, cosiddetto come ormai le chiamiamo, in realtà sono la Popolare di Vicenza e Veneto Banca, massacrate le banche ma soprattutto i risparmiatori, 15 miliardi di perdite complessive di risparmio tra Vicenza e Montebelluna, da quelle che venivano considerate le banche del territorio. Ricorderete quanta retorica abbiamo ascoltato in questi anni, prima che arrivassero Etruria, Chieti, Ferrara, Marche e poi Popolare di Vicenza e Veneto Banca, su quanto la banca legata al territorio, il localismo fosse meglio delle altre. Tutte balle, e su questo secondo me una riflessione dovrebbe farla anche un partito come la Lega, nel caso delle Venete non ho sentito mezza parola su questo, e cioè chi ha fottuto i Veneti sono stati i Veneti stessi, e questo si può dire così, chi ha fregato gli aretini sono stati gli aretini stessi, da quello che leggiamo, boschi o non boschi. Chi ha fregato i marchigiani sono stati i marchigiani, cioè tutta questa idea che il localismo, la banca nel territorio fosse più vicina al territorio, quindi lo penetrasse meglio, l'ha penetrato in un altro modo e li ha fregati anche peggio. Lo dico perché? Perché secondo quanto anticipato oggi da Reuters e da fonti del Ministero dell'Economia e Finanze, confermate da Sole 24 Ore, la Commissione Europea ha chiesto 1 miliardo in più dai privati per concedere via libera dello Stato al salvataggio di Popolare Vicenza e Veneto Banca. Soldi privati, perché praticamente lo Stato non potrà, ricorderete la legge salva risparmio con il budget da 20 miliardi di cui parte vanno a Monte dei Paschi, parte anche per Veneto Popolare di Vicenza. Il confronto degli ultimi giorni infatti avrebbe fatto radicalmente cambiare lo schema dell'operazione da 6 miliardi e 400 milioni. Il totale resterà lo stesso, ma il contributo a carico dei privati, che attualmente era pari a 940 milioni, è l'anticipo versato dal Fondo Atlante, deve più i 700 milioni derivanti dalla conversione di bond e di obbligazioni subordinate, deve salire di un altro miliardo, e quindi il contributo dello Stato dovrebbe ridursi da 4,7 a 3,7 miliardi. Faccio notare che poi ci sono altri 6,6 miliardi per il Monte dei Paschi di Siena, la ricapitalizzazione complessiva vale 8,8 miliardi. Qui ci sono tutti un insieme di errori fatti anche dal nostro governo, fatti anche quando scattò il bail-in, non far notare che alla fin fine avevamo mal contati 20 miliardi di sofferenze bancarie, quando la Germania a suo tempo ne ha fatti finanziare dallo Stato 123 più 18 Commerzbank e Dresdner, di cui 15 già restituiti, l'Irlanda 64, la Spagna ha chiesto aiuto al Fondo Europeo di Salvataggio 100 miliardi, l'Olanda ha messo 35 miliardi, la virtuosissima Olanda, che sempre ci dà lezioni, ha messo 35 miliardi per ricapitalizzare due banche che sennò fallivano, ING e ABN AMRO, quindi non eravamo noi gli unici. Problema che l'allora Presidente del Consiglio Letta, l'allora ministro delle finanze, mi riferisco a Padoan, e poi anche quando arrivò Renzi prese la cosa sotto gamba o non gli fu spiegata bene dalla Banca d'Italia, dal ministero. Arrivammo a novembre del 2015, quando entrava in vigore il bail-in, a fare la risoluzione sulle quattro banche, perdendo completamente la possibilità di fare come Germania, Irlanda, Spagna e Olanda, cioè mettere soldi di Stato per non farle saltare e poi farsi di ridare se sono dei prezzi. Lo dico perché adesso la durezza di Bruxelles nei confronti di queste due banche per un miliardo in più mi sembra veramente da memoria molto molto breve, visto che non vi è stata, non c'era il bail-in e bisognava bloccarlo prima. Questa è colpa anche dei nostri politici e quindi non si può dare in questo caso solo la colpa all'Europa. Qualcuno mi scrive è diventato grillino. No, non sono diventato grillino, sono rimasto me stesso, se ce la faccio. Andiamo avanti. No, non sono stati i veneti. No, guardi, su questa cosa dei veneti ribadisco quello che ho detto. Tutta la vicenda popolare di Vicenza e Veneto Banca, è inutile che ci giriamo attorno, e lo dico da Veneto. Accettate il fatto, al di là del referendum, non frega nulla, che chi ha fregato i risparmiatori veneti sono stati in stragrande maggioranza, perché adesso non mi ricordo l'origine e provenienza di tutti, ma in stragrande maggioranza veneti, cioè mettetevela via, non è arrivato nessuno da fuori. Questo a dimostrazione anche, dove era la Banca d'Italia, ma poi ne parleremo nella seconda ora del programma, e vale anche per gli aretini, e vale anche per i marchigiani, vale anche per i ferraresi, vale anche per gli abitanti della provincia di Chieti. Notizie in breve. Andiamo avanti con le notizie. No, per carità, vedo molti messaggi. Forza Chievo, e ci mancherebbe. Ci mancherebbe che non lo possiate scrivere, dico. Allora, prima di arrivare alle notizie della settimana, gli sprechi della settimana, la poco invidiabile classifica di Radio 24, le altre notizie, e parlare poi di banche e del decreto Madia, prima le altre notizie. In breve, per quello che riguarda l'economia internazionale, oggi abbiamo avuto un certo rialzo sul prezzo del petrolio, che è tornato sostanzialmente a $50 al barile, in una settimana in cui diciamo anche la borsa in qualche modo ha preso atto dell'attacco alla sicurezza della rete informatica. Ne abbiamo parlato a lungo anche noi. Su questo vorrei far sentire subito i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, trasmessi anche su RDS, oggi a firma del vice direttore Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Platerotti. È passata una settimana dal grande attacco informatico globale che ha paralizzato 200.000 computer in oltre 150 paesi, e qualche considerazione è possibile farla. Non sappiamo certamente chi sono i pirati, ma sappiamo sicuramente che hanno un effetto apparentemente benefico sulle borse e sui mercati finanziari. È proprio così. Se andiamo a guardare il Nasdaq, per esempio, nell'ultima settimana, ci accorgiamo che i titoli del settore della sicurezza sono proprio quelli che hanno dato sostegno al listino. Ma in realtà, guardando ancora meglio, ci accorgiamo che circa un mese che è partita una corsa senza freni proprio di questo comparto. C'è un gruppo di aziende specializzate proprio nelle tecnologie per la sicurezza di internet e delle reti che sta guidando la corsa, per esempio la FireEye, che è in rialzo dell'8% proprio dall'inizio di maggio, o due aziende israeliane, la CyberArk e la Point Software, una in rialzo dell'8%, l'altra del 7,5%. Come dire che più crescono gli attacchi, più crescono le speranze di vedere gli indici del settore tecnologico tornare a correre. In realtà stiamo parlando di una spesa da parte delle aziende che è enorme rispetto a questi guadagni di borsa. Basti pensare che sulla network security sono stati spesi $3,5 miliardi nel 2004 e passeranno a $120 miliardi proprio quest'anno. Ma in realtà sta esplodendo soprattutto il costo di questi attacchi a carico della collettività e delle imprese. $3 miliardi è il costo che è stato stimato per il 2015, quest'anno dovrebbe addirittura salire oltre i 4.000 miliardi di dollari, una cifra spaventosa se rapportata anche a quella militare. Pochi se ne sono accorti, ma oggi la spesa in sicurezza delle reti ha superato quelle della difesa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora andiamo invece con le altre notizie in breve di carattere internazionale. Mi riferisco chiaramente al Brasile, che continua a destare molta preoccupazione. C'è stato un tentativo di rimbalzo dopo il crollo di ieri della borsa di San Paolo, che ha perso oltre l'8%, l'1,6%. Fitch ha confermato il rating negativo. Invece in Grecia il Parlamento ha approvato ieri sera una nuova serie di misure di austerità concordate tra il governo di Tsipras e i creditori internazionali, che metteranno ancora di più alle strette la popolazione nei prossimi anni. Scontri fuori dal Parlamento come nel 2010, un arresto. Per quello che riguarda invece la manovra italiana, nelle cosiddette country specific recommendations, quindi le raccomandazioni europee sull'Italia, che saranno pubblicate lunedì prossimo dalla Commissione europea, non sarà indicata l'entità della correzione dei conti pubblici da realizzare nel 2018. Questo sarà infatti al centro di un negoziato bilaterale che si aprirà nei prossimi mesi. Vedo molti messaggi sul fronte popolari e quant'altro, però devo dire che su questo non ho nulla da ribadire, cioè l'Europa la spiegheremo, chiedo un miliardo in più, ma se la polemica è che lei offende gli abitanti di quei luoghi, vabbè, poi ci torniamo. Bisogna anche ammettere delle volte, ecco, non è che il localismo sia sempre per bene. Io lo so che c'è questa vulgata che se la banca ha un nome inglese o è grande, dietro ci sono i Pluto giudaico, massonici, quant'altro. Se invece la banca è piccola e si chiama come il territorio, è una banca amica del territorio, si va a bere un bicchiere in osteria. Non è così, non è così. Gli scandali di questi anni dimostrano che non è così. C'è il Monte dei Paschi, che tra l'altro delle banche grandi era quella che vantava l'insediamento più forte nel territorio senese. Molti dicono che proprio il modo in cui, diciamo, la comunità senese ha anche utilizzato il Monte dei Paschi è stato l'inizio della rovina, per cui era una banca grande ma ancora con un atteggiamento molto molto localistico, nulla si muoveva, tutto doveva finanziare il Monte dei Paschi. E poi banche locali, che quanto a massoneria non mi sembra che, insomma, in alcuni casi, dalle sospetti che abbiamo, abbiano nulla da imparare dai grandi colossi. Quindi è inutile. Poi so che magari il nome straniero dà fastidio, perché c'è questa idea che se sei piccolo sei sempre bello, sei sempre pulito, sei sempre bravo. Io mi baso sui fatti, non è così. Hanno fregato i loro concittadini o corregionali in assoluta leggerezza. Andiamo avanti. Le borse, dicevo, 5,35% Case New Holland, Fiat Chrysler più 3,80, Boots Unice più 3,20, Fineco Bank più 2,40, Brembo più 2,30, Ferragamo più 2,30, Azimut più 2,20, Come WeBank 2% lo guadagna Leonardo, e A2A l'1,80 Italgas e Unicredit. Borsa, come sentite, ben intonata, più 1,20% Milano, è tra le migliori. Parigi più 0,60, Francoforte più 0,40, Londra più 0,70. Di negativo e significativamente negativo c'è solo Ferrari, meno 2,30%. Andiamo avanti con le notizie invece di carattere italiano a questo punto. Mi riferisco alla riforma Madia, che ha avuto via libera da parte del Consiglio dei Ministri sugli statali. Allora partiamo prima della classifica con il tema della riforma Madia, che riguarda, che in qualche modo è propedeutica la classifica, perché riguarda anche norme non solo punitive ma in alcuni casi più stringenti sul pubblico impiego. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Che cosa prevede? Vi do una rapida sintesi. Allora, le assunzioni mirate ai tetti per le donne, si passerà da un'impostazione rigida delle assunzioni basate su piante organiche nella pubblica amministrazione a un modello che guarda le esigenze concrete, speriamo impostato su programmi triennali e figure strategiche. E scatta anche un tetto per gli idonei nei concorsi, il 20%. Poi, piano straordinario per i precari storici, viene disegnata una cosiddetta roadmap, un piano per assorbire in tre anni, 2018-2020, dal 2018-2020, per assorbire, scusatemi, chi da tre anni, anche non continuativi degli ultimi otto, è al servizio della pubblica amministrazione. C'è un doppio canale, una parte potrà essere assunta direttamente chi è entrato per concorso, per gli altri vi sarà una riserva del 50% nelle future prove. I contratti dovranno assicurare poi una differenziazione dei giudizi per mettere fine alla distribuzione a pioggia dei premi, ma va, più che a pioggia è a tutti, perché sappiamo che sui dirigenti sempre il 98% raggiungono l'obiettivo. E poi dipende anche dall'obiettivo che metti. Per cui saltano però i vincoli della legge Brunetta, che prevedeva una rigida divisione all'interno di ogni amministrazione, per cui c'era sempre un 25% che restava secco. I cittadini potranno dire la loro sulla qualità dei servizi e il loro giudizio contro al fine del voto. Sì, la voglio vedere questa, però va bene. Sanzioni per i furbetti del weekend lungo. È affidata ai contratti la formula per colpire chi puntualmente lunedì o venerdì si sente male, o casi di assenze collettive in data da bollino rosso, dalle iscrizioni alle scuole al G7 agli scrutinatori. Per frenare il fenomeno saranno anche messi freni a fondi per premi laddove risultino tassi di assenteismo sopra la media. Questa è bellissima. Allora, spero che sia un errore dell'agenzia. Tassi di assenteismo, l'assenteismo è un reato. Ah, tu non mi puoi dire che ti levo il premio se i tassi di furto sono superiori alla media. Immagino tassi di assenza, non di assenteismo. Spero che sia un lapsus freudiano dell'ANSA. Il tasso di assenteismo non è mai tollerabile, anche se fosse un giorno. Tassi di assenza sopra la media. Visite fiscali a INPS, quindi la competenza sugli accertamenti passa dalle ASL ai medici dell'INPS. Speriamo che siano un po' più corretti, cioè che lasciano giustamente malattia che malattia, ma non diano sempre giorni anche a chi delle volte queste cose non ne ha bisogno. Andiamo avanti. Con la creazione di un polo unico fra pubblico e privato, come appunto il modello è quello del privato. Decreti attuativi garantiranno un'armonizzazione delle fasce orarie di reperibilità e dei criteri per una cadenza sistematica e ripetitiva. Saranno garantite le incompatibilità tra controllore e controllato. Pensavo già lo fossero, evidentemente. Chiarezza sui licenziamenti. Viene fatto ordine in caso di licenziamento, dallo scarso rendimento alla cronica condotta illecita. Per gli statali resta intatto però l'articolo 18. Nel senso che per gli statali viene introdotto lo scarso rendimento alla cronica condotta illecita, i tempi per arrivare a decidere sulla sanzione si riducono da 4 a 3 mesi, capirai, e un mese per tutti i casi di flagranza. Per gli statali resta intatto l'articolo 18, però viene messo un tetto al risarcimento, massimo 24 mensilità. Oh, il ministro Madia su questo è intervenuto, ha voluto commentare e ricordare il portato di questa, di quanto approvato oggi in Consiglio dei Ministri. L'efficacia delle sanzioni se sbagli. I vizi formali, per esempio, non consentiranno più di annullare le sanzioni se un dipendente pubblico ha sbagliato, e questo sulla scia del ormai famoso decreto, questo già vigente, sulla falsa attestazione in servizio su chi timbra, diciamo, per un altro, su chi quindi falsa la sua attestazione in servizio in ufficio, che sta dando, laddove si verificano i casi, la prova di essere una norma efficace. Recentemente è stata applicata a un dipendente della regione Emilia-Romagna, insomma abbiamo dal nostro monitoraggio al Ministero la prova che questa norma è stata tutt'altro, diciamo, che una norma sbandierata come invece era avvenuto in passato, ma è una norma che sta dando prove concrete dell'efficacia della sanzione laddove c'è una prova che si è voluta falsificare la propria presenza in servizio. E poi le assunzioni, secondo il ministro Madia, appunto, superiamo il precariato e il cattivo reclutamento ereditato, servono giovani, ma le assunzioni devono essere mirate. Il reclutamento, il superamento del precariato della pubblica amministrazione, quindi quel cattivo reclutamento che abbiamo ereditato e che a questo punto ci lasciamo alle spalle, abbiamo qui valorizzato molto i pareri parlamentari e soprattutto generalizzato una buona pratica che ha già dato buoni esiti, per esempio sulle educatrici dei nidi. Per il reclutamento da qui al futuro i decreti puntano sui fabbisogni e non più sulle piante organiche, perché dati alla mano siamo consapevoli che abbiamo bisogno di riaprire le assunzioni nel pubblico impiego, di far entrare giovani, da un buon reclutamento si determina un buon futuro, ma non abbiamo la necessità di far entrare giovani di qualunque professionalità, ma di stare attenti a far entrare le professionalità che servono all'amministrazione per far arrivare i servizi ai cittadini. Allora, adesso questo era in qualche modo, diciamo, propedeutico alla classifica. Andiamo subito sul metodo pubblicità e poi partiamo con la classifica dei cinque sprechi della settimana. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. La classifica della settimana. Oh, partiamo subito con la classifica della settimana. Al quinto posto. Dire che oggi la trasmissione tra distruzione di valore dei privati con le banche e spreco pubblico. Allora, secondo voi che cosa si fa, come quei bambini, che cosa si fa per creare, diciamo, per evitare sprechi in una pubblica amministrazione? Si crea un ente che ha il compito di evitare sprechi, ma è uno spreco esso stesso, cioè il massimo sto paese. Allora, stiamo parlando dell'Abruzzo, dove è nato, in realtà era già stato ipotizzato nel 2013, se non ricordo male, ma è effettivamente diventato operativo l'ente d'ambito del servizio idrico integrato, ERSI. Dunque, la nascita dell'ente d'ambito del servizio idrico integrato doveva essere, in qualche propedeutico, cioè doveva poi creare la chiusura degli ATO, cioè degli enti d'ambito, ma ovviamente così non è stato, nel senso che l'intera ipotesi, l'ERSI nacque con l'ex governatore Gianni Chiodi nel 2013, La sua funzione era quella di riorganizzare e accentrare i poteri dei vari ATO a ambito territoriale autoimmare, riducendo gli sprechi, tagliando inutili costi, consigli di amministrazione e direttori vari. In realtà il capolavoro è questo: non solo non ha chiuso gli altri enti, ma è diventato lui stesso produttore di dirigenti, che è in alcuni enti la principale funzione che hanno. Perché è stato assegnato l'incarico, perché essendo un ente nuovo deve dotarsi di tutto l'apparato che gli è dovuto, dal presidente al consiglio di amministrazione fino al posto del direttore generale. E pochi giorni fa abbiamo avuto anche il direttore generale Tommaso Di Biase, architetto molto vicino, i giornali locali lo definiscono fedelissimo, ma noi diciamo solo molto vicino, al governatore Luciano D'Alfonso, ex assessore tra l'altro del comune di Pescara in tempi in cui lo stesso D'Alfonso era sindaco, quindi presumiamo che almeno politicamente la vicinanza ci sia. La sfida era a due, in realtà. Insieme a Di Biase era sceso in lizza anche lo storico braccio destro di D'Alfonso, Guido Dezio, cioè una sfida tra braccio destro e braccio sinistro. Dirigente del comune di Pescara, tra l'altro indagato insieme al governatore nell'ultima vicenda giudiziaria, quella sui permessi dati da Dezio e dal governatore per la lottizzazione sul lungomare. C'era anche una terza persona che aveva un problema, lei si occupava della materia e questo sappiamo che è un problema delle volte, perché la terza persona era una dirigente regionale che si occupa del settore servizio idrico da diversi anni e almeno se devi metterci una che sei in un nuovo ente sull'idrico, ente sul servizio idrico, mettici una che abbia fatto servizio idrico, col cavolo, col cavolo. Perché lei ha provato a partecipare alla competizione, ma non è nemmeno stata ammessa al colloquio. Anzi, nel rifiutarle il colloquio, l'hanno diffidata a non procedere alla selezione. E poi vi è stata anche una richiesta di acquisizione degli atti, per cui insomma, una roba stranissima. Ciò nonostante, Di Biase arriva alla direzione generale dell'ERSI, lui che insomma è iniziato col Partito Comunista, coi Verdi, poi Rifondazione Comunista, poi Ecologia e Libertà, benissimo, che ha condiviso cadute e risalite con il presidente del il governatore D'Alfonso. Il punto qual è? Lo farà gratis? Perché? Perché la giunta regionale abruzzese lo scorso febbraio si è impegnata a dare forma alla nuova poltrona e prenderà l'indennità di 200.000 euro. No, ma adesso ve lo leggo seriamente. Che cosa ci vuole per fare direttore generale di questo ente d'ambito del servizio idrico integrato in Abruzzo? Ci vuole una laurea, ma non serve una laurea che abbia a che fare col servizio idrico integrato. Cioè, ti puoi essere laureato anche in filosofia teoretica, in scienze politiche, in architettura, quello che vuoi. Anzi, abbiamo capito con la dirigente che se la laurea non è attinente al servizio idrico integrato, meglio è, perché li vogliamo formare da giovani, senza incrostazioni. Giovani, non lo so quanto giovane sia Tommaso Di Biase. È architetto, e allora da lì la multidisciplinarità, questo sta inventando l'Abruzzo. Uno è architetto, ma deve occuparsi di idrica, così. 200.000 euro, però siccome 200.000 euro non sono pochi, perché l'Abruzzo è una regione, insomma, nel mondo c'è Singapore, Hong Kong, New York, Londra, e l'Abruzzo come costo della vita molto alto, potrà arrivare al 30% della retribuzione lorda annua il premio per il raggiungimento degli obiettivi. Ministro Madia, vede? Allora, il raggiungimento degli obiettivi, vista la selezione fatta, io scommetto che ce la farà a raggiungerli. Non ho dubbi, dopo quello che abbiamo raccontato. E quindi 30% di 200.000 euro lordi a casa mia sono altri 60.000-65.000 euro lordi, che non ho dubbi che Tommaso Di Biase, grazie alla durissima selezione, anche qui c'è West Point e poi la selezione per l'ente d'ambito del servizio idrico integrato, raggiungerà. Faccio notare banalmente, visto che una certa retorica se la prende sempre con i politici di Roma, per carità, che il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, riceve uno stipendio di 239.000 euro l'anno. Secondo me, siccome lui ce la farà a prendere il 30% in più con gli obiettivi, il mitico Tommaso Di Biase guadagnerà più del Presidente della Repubblica, ma sappiamo benissimo che gestire l'ente d'ambito del servizio idrico integrato è cosa assai impegnativa, senza richiesta di competenze specifiche. Andiamo al quarto posto, dove dall'Abruzzo risaliamo di un pochissimo in realtà, perché ci fermiamo a Roma. A Roma io non ne posso più. O questa rubrica la trasformiamo, mettiamo che c'è uno spazio dedicato a ATAC e AMA, o mi date altre notizie. Allora, l'ATAC, succede una cosa stranissima. L'ATAC sta facendo il bilancio dell'andamento dei biglietti nei primi 3 mesi. L'ATAC è la municipalizzata di Roma, la peggio gestita in Europa. 1.500 milioni di debito e tutto quello che abbiamo. Non posso riassumere ogni volta la storia dell'ATAC. In un anno ci sono 111.000 ore di distacchi, 111.000 ore per distacchi sindacali, sono praticamente 80 dipendenti al giorno che stanno a fare il distacco sindacale. Io capisco i diritti dei lavoratori, ma 80 dipendenti è una media impresa italiana, e fallisci e gestisci. E gestisci pure le salette per le bibite, le macchinette per le bibite, le merendine e le mense, tutto, capito? 82 persone ogni giorno non lavorano all'ATAC perché sono in distacco sindacale. Cioè, questo è l'equivalente di 111.000 ore, no? Ma il sindacato non ha niente da dire, ovviamente, no? Perché giusto, 82. Allora, ciò nonostante, che cosa è successo? È successo che nei primi 3 mesi di quest'anno, nella nuova gestione dell'ATAC, noi avevamo banalmente detto che l'allora direttore generale Marco Rettighieri, che non ho mai avuto il piacere di conoscere, si era mosso bene, aveva messo le telecamere a circuito chiuso in tutti i depositi dei mezzi, il furto di materiale era precipitato, da 10 milioni l'anno a zero. Rubavano 10 milioni di euro l'anno equivalenti dentro i magazzini dell'ATAC, i dipendenti, immagino, o comunque qualcuno lì vicino. Il consumo di gomme era passato da 1500 pneumatici a 500. Ma invece quando è arrivato il sindaco Raggi, l'allora assessore Muraro, nonostante tutte le perplessità che emergevano, una delle prime cose che fece è far fuori Marco Rettighieri. Bene, bene, vediamo come va l'ATAC adesso. Guardate, lo dico a chi simpatizza per i 5 Stelle, attacco i 5 Stelle come il PD, come Forza Italia, come Berlusconi, come la Lega. Non è che quando uno critica la Raggi deve essere invaso dai messaggi, mentre se critichi il PD va tutto bene, o se critichi Berlusconi o la Lega va tutto bene, chiaro? Questa o quella per me pari son, ok? Allora, dopo 3 mesi di gestione Raggi, prosegue la fuga dei romani dal trasporto pubblico locale, grazie anche a una drastica diminuzione delle corse, ritardi endemici, incidenti vari e scarsa manutenzione. Praticamente il parco auto è uno dei più obsoleti d'Italia. Il report è implacabile: nei primi 3 mesi di quest'anno l'ATAC ha perso per strada 737.000 biglietti, voglio dire in meno rispetto ai primi 3 mesi del 2016, è il 3,20% in meno, schizza al 6% se si confronta al volume complessivo dei biglietti ceduti, cioè fatto 100 il numero di biglietti, vai a vedere quanti ne ha perso e ne ha persi il 6%. L'andamento è imputabile principalmente alle vendite dei titoli Metrobus Roma, meno 875.000. C'è però e i ricavi da traffico ne risentono, 63 milioni di euro in meno. Nei primi 3 mesi dell'anno l'ATAC, a questo punto sindaco Raggi non abbiamo più scuse perché lei è arrivata un po' prima, nei primi 3 mesi dell'anno l'ATAC ha perso 63 milioni di euro di biglietti. Quello che era l'ATAC prima di lei, ci mancherebbe, colpa delle gestioni Marino, Alemanno, possiamo andare indietro, Veltroni, Nutelli, quello che volete, ma adesso ha perso 63 milioni di euro, scusate, ha incassato 63 milioni di euro. C'è una buona notizia però, perché adesso l'azienda è guidata da Manuel Fantasia, che sperava di riscuotere nei primi 3 mesi 3 milioni in più invece, ma c'è una buona notizia: le multe. Allora, il boom delle multe combinate ai portoghesi, eccola qua, sono felice perché i premi in Italia sono solo a Roma, meno male che c'è la Raggi, che bello, fate pena, mi scusi, abbia pazienza, ma se stiamo raccontando, ho appena attaccato le banche vente, quelle dell'Etruria, Marche, Rieti, Ferrara, Veneto, Popolare di Vicenza, i leghisti quando difendono sempre comunque il territorio, adesso che critico, abbiamo appena attaccato l'Abruzzo, se dico una cosa contro la Raggi facciamo pena, vede che il problema è che non c'è peggior sordo che chi non vuol sentire. Allora, su 63 milioni incassati sperava di incassarne 2 milioni 8 in più nei primi 3 mesi, ma c'è una buona notizia, se mi lascia finire anche l'ascoltatrice Grillina, che il boom registrato dalle multe c'è stato più 17%, perché hanno fatto più controlli nei primi 90 giorni dell'anno, hanno fatto 41.000 controlli, 6.100 controlli in più. Questi 6.100 controlli in più hanno portato a 4.200.000 l'incasso complessivo contro i 3.600.000 dell'anno scorso, ossia sono entrati 625.000 euro in più grazie ai maggiori controlli nelle visite. 625.000 euro in 90 giorni, non è poco. Allora, stiamo parlando quasi di 7.000 euro al giorno, 70.000 euro al giorno, 7.000 euro al giorno in più solo di controlli. Bene. Tra l'altro gli agenti impegnati sono di più, 91 quelli impegnati nelle verifiche dei ticket, 19 in più rispetto al 2016. Allora, quindi hai un calo di biglietti, mai un maggior incasso dai controlli dei biglietti. Piccolo problema, e qui vado al terzo posto, perché non ne faccio andare l'ATAC che il quarto e il terzo. Terzo posto è che il sindacato che aveva firmato, il sindacato dell'ATAC, che a mio avviso ha delle responsabilità enormi di una messa a gestione, in molti casi anche cogestione dell'ATAC, non ho problemi a dirlo, mi si dimostri il contrario, dicevo, il sindacato si era mobilitato firmando un accordo con l'azienda in cui veniva fatto c'era un principio per cui anche il dipendente amministrativo a turno andava a fare il controllore, e cioè si è chiamata la discesa in campo degli amministrativi, tirati fuori dagli uffici si trasformavano in controllori di biglietti, in 1400 a turno, non 1400 tutti in una volta al giorno, 1400 ruotavano, si chiamava campagna Beep and Go, praticamente prevedeva una cosa che già qualche frutto lo sta portando. Allora, con una lettera FILT CGL, FIT CISL, WIL Trasporti e FAISA CISAL hanno detto: la campagna doveva essere discussa e normata in tutte le sue forme, congiuntamente tra le parti, cosa che puntualmente non è avvenuta. E quindi hanno aggiunto: denunciamo il mancato rispetto agli accordi sindacali, salta l'accordo. Che cosa è successo? È successo che i sindacati sono stati sommersi da lettere di dimissioni dal sindacato, con un conseguente effetto, perché come si paga l'iscrizione al sindacato? A quel punto meno versamenti, ma anche minor trattenuto in busta paga. È un problema per il bilancio dell'organizzazione sindacale quando ti vengono meno gli iscritti, lo sappiamo tutti. Massimo rispetto. Il problema è che a quel punto il dietro fronte è stato immediato, altro che accordo firmato per dimostrare il senso di responsabilità. Ma sapete la cosa che mi fa impazzire, poi vado sul traffico, che stiamo andando un po' lunghi, è che avevano creato dei turni, cosa ha fatto dopo l'accordo sindacale? Ha creato dei turni negli amministrativi, delle fasce di controlleria, in cui tu, il problema è che in alcuni casi ha superato gli orari definiti dal contratto, e costringendo alcuni impiegati a lavorare nel metro sino alle 18, superando l'orario ordinario che prevede che la giornata dei dipendenti amministrativi si concluda alle 16. Che cosa deve dire? Perdi 1,5 miliardi. Hai bruciato 4,5 miliardi in 5 anni. Traffico. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta Focus Economia. Allora, quanto abbiamo? Un minuto scarso, nulla. Al secondo posto va avanti la Affittopoli napoletana. Il danno della nuova vicenda alle casse del Ministero dei Beni Culturali del Demanio vale circa 1 milione di euro. Sono state beccate altre case. Dopo, ricorderete, il giro di 16 case distribuite tra 3 monumenti di pregio, e dopo gli immobili scoperti dalla Reggia di Caserta, appunto un gruppo di 16 case più altre 5, il gruppo di 16 case distribuito tra 3 monumenti di pregio, Viglia Pignatelli, Bosco di Capodimonte, Floridiana, gestione che chiamano antieconomica, ma tutto succede dal 2010, quando quei beni che appartenevano al demanio dello Stato passano al Ministero. E quindi concessioni scadute anche dagli anni 70 e 80, case occupate senza titolo da 30 anni abusivamente e nuovi casi abusivi. Ci sono 5 appartamenti nella palazzina Rothschild, ingresso su via Giacomo Piscicelli, 2 piani incastonati tra il Museo delle Carrozze e l'architettura neoclassica di Viglia Pignatelli, camere con vista sul parco della Riviera di Chiaia, poi 3 immobili su via Domenico Cimarosa al Vomero, e poi 8 appartamenti al Bosco di Capodimonte. La cifra media dell'affitto è di 50 euro. Ora chiudo con una non notizia, poi dopo il meteo e buonanotte, dopo il GR24 andiamo sul primo posto. Non sta filtrando il nome di chi ci vive a 50 euro al mese invece che minimo 800, ma badate, indiscrezione della Procura di Napoli, che quante indiscrezioni insomma ne ha, è emerso che in molti casi si tratterebbe di parenti ed ex dipendenti della sovrintendenza, vedove di custodi, scrivono defunti, te credo sono vedove, figli di ex funzionari. Ma dopo il GR24 il primo posto è il caso Virtuoso. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Module Block, l'evoluzione del magazzino. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Come la sigla fa intuire facilmente, ci manca l'ultimo, il primo posto, non l'ultimo, della poco invidiabile classifica. And the winner is... il CNR di Napoli, perché ci eravamo occupati già a marzo di un'inchiesta che riguardava tale Gargiulo, Vittorio Gargiulo, ex funzionario amministrativo, era segretario, se non ricordo male, all'Istituto Ambiente Marino del CNR di Napoli. Ne avevamo parlato perché dopo una verifica di una fattura di una consegna non effettuata all'Istituto Marino ma alla residenza stessa del Gargiulo, 32.000 euro contabilizzati come materiali di consumo di laboratorio, e poi si è scoperto che erano giostre e giochi gonfiabili che lui evidentemente ha rivenduto a qualcuno o ci ha fatto giocare i suoi figli, ma in questo caso saranno pure piezze e core i figli ma non il padre. Invece era venuto fuori che c'erano stati 11.000 euro utilizzati sempre da Gargiulo per ristrutturarsi la casa con vasche da massaggio. Però questo è comprensibile: se tu lavori all'Istituto Ambiente Marino del CNR è giusto che la tua vasca sia profonda, questo si può capire, e anche idromassaggio, magari andava a verificare anche alcuni elementi dell'idrodinamica, contabilizzati come ripristino locali interni all'istituto. Oh, pazzi. 40.000 euro spesi da Gargiulo per studio e progettazione tenda jack-up, che poi mi avete spiegato anche cos'è la tenda jack-up, non ricordo più, però in realtà ha acquistato teloni e tende per uso personale, e 16.000 euro di mobili fatti figurare come campagne oceanografiche. Che un mobile possa fare una campagna oceanografica è difficile, ma è niente rispetto a quello che sta capitando, perché la Procura di Napoli ha indagato e ha fatto scattare, il nucleo poi di polizia tributaria diretto dal colonnello Giovanni Salerno, ha fatto scattare perquisizione agli uffici di alcuni istituti della struttura e di alcune società. I reati ipotizzati sono peculato e associazione per delinquere, perché non c'è solo il Gargiulo che è un primo filone. Ci sono altri 7 indagati, fra cui il direttore generale del CNR Massimiliano Di Bitetto, già segretario amministrativo dell'Istituto Ambiente Marino Costiero di Napoli. Indagato anche l'ex direttore dell'Istituto Marino Costiero di Napoli, Salvatore Mazzolo Mazzola. E poi Ennio Marsella, dirigente di ricerca dell'Istituto, l'editore Paolo D'Anselmi, poi Michele Cilli e Giuseppa Ciccotti, che hanno ricoperto il ruolo di amministratore delle società finite sotto la lente degli investigatori. Allora, al di là della vicenda di Gargiulo, che proprio era... l'indagine adesso riguarda l'affidamento da parte dell'Istituto Ambiente Marino Costiero di Napoli di prestazioni di servizio ad alcune ditte ricorrenti, quindi sempre le stesse, e un'apparente duplicazione di prestazioni effettuate da queste ditte nel 2014. Poi c'è un altro capitolo che riguarda i fondi PON, Programma Operativo Nazionale. Allora, su questo vince il primo posto oggi. Che cosa è successo? Tra l'altro la segnalazione è arrivata, va detto, da Laura Giuliano, che per 2 anni è stata direttore dell'istituto, poi dopo aver cercato di fare chiarezza nel 2016 si è dimessa, non prima di aver fatto le sue segnalazioni al Ministero per l'Università e Ricerca. A me il plauso deve andare a Laura Giuliano, che si è dimessa, io la riassumerei subito in un paese normale. Allora, che cosa è successo? Quasi un milione di euro, sono per la precisione 951.000 euro spesi tra il 2010 e il 2015 per acquisti definiti anomali dal PM Ida Frongillo, anomali acquisti di materiali informatico e cellulari, materiali non inventariati, in gran parte iPhone acquistati con soldi pubblici di cui si sono perse le tracce e in alcuni casi li hanno ritrovati in vendita online. Ragazzi, no? 950.000 euro di telefonini di acquisto. Poi c'è il capitolo dei fondi PON, programmi operativi nazionali, somme ritenute utilizzate indebitamente. Il totale qua sfiora i 5.700.000 euro. 2.500.000 li ha già chiesti indietro il Ministero Università e Ricerca. La Commissione Interna CNR ha condotto un esame approfondito delle spese imputate. e adesso ha organizzato un insieme di audizioni con alcuni ricercatori in qualità di responsabili scientifici, anzi le ha già organizzate alcune audizioni con alcuni ricercatori che erano responsabili scientifici dei progetti finanziati, i quali ricercatori in alcuni casi sono caduti dalle nuvole, hanno disconosciuto una serie di spese, hanno dichiarato di non essere a conoscenza che le stesse fossero state imputate sui progetti di cui erano responsabili. Quindi venivano gonfiati questi piani oltre ogni immaginazione per complessivi 6 milioni di euro che vanno restituiti. Poi ci sono altri 8 milioni di euro di anticipi di missione tra il 2010 e il 2014. Ma ragazzi, ma come si fa a avere 8 milioni di euro di anticipi, sono anticipi di cassa per una missione che devi effettuare? 8 milioni in 4 anni, 2010 e 2014, a trasferte ritenutesi mai effettuate. Ma manco ci è andato in trasferta questo. Poi viaggi effettuati a titolo personale da parte dei dipendenti. E le verifiche adesso riguardano invece un terzo filone, ossia affidamenti per un complessivo importo di 12 milioni dal 2010. Bisogna capire se ci sono state leggerezze o negligenze, e molte spese appaiono ingiustificate e molti appalti ricorrenti. E vuoi non dare l'applauso all'Istituto Marino di Napoli? Diamo. Sì, qualcuno mi scrive maestri. Beh, insomma, ragazzi, maestri, ma il fatto che 1 milione di euro di telefoni rivenduti anche online, ma voglio dire, ma né Jack Ma di Alibaba, né il fondatore di eBay, né Amazon, ma nessuno arriverebbe mai a questo. Stiamo creando una nuova formula delle vendite online. Li acquisti con soldi pubblici, non ti servono, li metti online e ci guadagni due volte. Perché volete raccontarmi che con questo andazzo non c'era un accordo tra chi acquistava i telefonini e chi glieli vendeva? E dai, e dai. Nicolò Cavallo, fondatore di NoiseFeed, buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Buonasera. Quanti anni ha? Che cosa fa NoiseFeed? Chi vi ha aiutato a trovare i soldi? Allora, innanzitutto ho 31 anni, ho fondato NoiseFeed circa 7 mesi fa. NoiseFeed è una piattaforma web contenente il più grande database, diciamo, al mondo di addetti ai lavori del mondo calcio, circa 200.000 profili, con una copertura social e web. E noi siamo incubati in un incubatore, nel primo incubatore sport tech italiano, che è YLab a Chiavari, e diciamo che il primo aiuto è arrivato proprio da loro. Quanti soldi? Ma il micro seed iniziale è stato di 25.000 euro, che ha permesso così lo start-up, diciamo, dell'attività, il primo sviluppo della piattaforma e diciamo l'inizio delle attività commerciali. Ad oggi abbiamo iniziato a vendere a diversi club in Italia, in Serie A, in Serie B, a leghe, a procuratori, a media, quindi diciamo che con il loro aiuto abbiamo iniziato un'attività che piano piano inizia a crescere e ci permette di al momento trattare con un investitore estero, speriamo che ci porti, diciamo, bene, ecco. Senta, io però non ho capito perché io dovrei pagare il vostro servizio, cioè che cosa fate? La nostra piattaforma aggrega circa 200.000 ad oggi profili di addetti ai lavori del mondo calcio, partendo dal club. Ma non solo i calciatori, immagino. No, tutti addetti ai lavori, non è un database, diciamo, di tipo fan, è un database per i professionisti del mondo calcio, e aggrega appunto dal club ai giocatori, agli ex giocatori, quindi per la parte sportiva, i presidenti, i direttori sportivi, e poi tutta la parte, diciamo, media, che sono l'altra parte della medaglia. Ma è vero che voi riuscite anche a avere un monitoraggio di qualunque notizia o dichiarazione del mondo, esatto, del calcio? Cioè, insomma, esatto. Anche ogni tanto abbiamo visto casi di calciatori che scrivevano, che twittavano frasi fuori luogo, cioè quello appare nel sistema? Diciamo che questa è stata l'idea iniziale, venuta fuori con una chiacchierata con un presidente di una squadra di Serie A, che appunto ci ha permesso di iniziare l'attività e poi andare a sviluppare questa piattaforma che permette da una parte per i club e per gli agenti, diciamo, di intervenire in temporale in tutte quelle che sono le notizie generate dai propri tesserati o dai propri assistiti, e dall'altra parte per i club, per i media e per le agenzie, diciamo, di marketing, poter intervenire, accedere diciamo in tempo reale, comunque in modo molto veloce, a quelle che sono le notizie, i trend, le informazioni, le news, e quindi poi per chi lavora con le informazioni, con le notizie, ovviamente farne quello che è più giusto. Senta, un'ultima cosa, per quello che riguarda il servizio che voi fornite, quant'è che fatturate, che state fatturando? Allora, noi abbiamo iniziato l'attività commerciale alla fine di gennaio con la chiusura, diciamo, del calciomercato, dove siamo stati sponsor. Ad oggi abbiamo, appunto, come dicevo, diversi club e agenti come clienti. Prevediamo di chiudere l'anno con circa 90-100.000 euro di fatturato, per poi, diciamo, aprire l'attività all'estero. Ovviamente arriviamo da due giorni di un evento insieme a White Scout, dove abbiamo presentato la nostra piattaforma anche a realtà fuori dall'Italia, e devo dire che il primo riscontro è molto positivo. Quindi il prossimo step è sicuramente quello di andare, essendo la nostra una piattaforma scalabile, andare ad aprire mercati dove il calcio è una cosa importante. Quanti siete al momento? Al momento l'azienda conta 5 colleghi. Mi scusi, ma con 100.000 euro di fatturato e 5 colleghi, di cosa campate? Campiamo lavorando tanto, cercando di crescere. Può lavorare anche tanto, ma se non viene pagato poi non... No, cioè, per usare Moretti, ma insomma, le sigarette come ve le comprate? No, le sigarette non si può più dire, ma insomma, il panino come ve lo comprate? Capisco perfettamente. Innanzitutto, diciamo che cerchiamo di stringere all'osso quelli che sono i costi, e ovviamente le formule che prevediamo, diciamo, di inserimento sono, sono flessibili, quindi dai soci che lavorano all'interno dell'azienda a partita IVA, piuttosto che collaboratori in stage. Quindi ovviamente per una startup questo è uno dei, diciamo, problemi più grossi, quello di poter inserire personale, diciamo, qualificato con formule flessibili, altrimenti non avremmo la possibilità di prendere personale in gamba. Ecco, le prospettive sul giro d'affari per l'anno prossimo? Ma guarda, a business plan prevediamo uno sviluppo dell'attività sull'estero con revenue per 350.000 euro il secondo anno di attività, andando, diciamo, a lavorare anche su Inghilterra, Spagna, Francia e Germania. Dopodiché vedremo, ovviamente. E voi avete tutte le società di calcio, giusto? No, purtroppo ancora non tutte, però stiamo lavorando per coprire quantomeno l'Italia al 100%. Cioè Serie A, Serie B? Serie A, Serie B, leghe e agenti. E anche chi della B va in A? Eh beh, certo, e anche chi della A va in B. Sì, a me interessa più chi della B va in A, cioè l'Ellas. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a lei. Tanto non riuscivo a non dirla. Grazie Nicolò Cavallo e ai suoi... e 5 soci, tutti tra i 20 e i 30 anni, non ho detto, in bocca al lupo veramente. Andiamo sul traffico, poi la borsa e la scelta di Bruxelles, molto a sorpresa devo dire, di chiedere 1 miliardo di euro ai privati per dare via libera al piano di salvataggio di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia, la borsa più 1,26% oggi Milano tra le migliori in Europa, Parigi più 0,70, Francoforte più 0,40, Londra più 0,50, Dow Jones più 0,70, bene Case New Holland Industrial, CNH più 5,35%, indicazioni positive dagli Stati Uniti, Caterpillar molto bene le vendite negli ultimi 3 mesi, e anche Deere, che sono le famosissime macchine americane per l'agricoltura, trimestrale molto buona, e per confronto si va a comprare Case New Holland. Fiat Chrysler, dopo una settimana difficile c'è un'apertura verso le autorità americane, ha chiesto la certificazione per alcuni modelli di auto diesel. Il titolo rimbalza più 3,90%, Buzzi Unicem più 3,5%, Finecobank più 2,60%, Leonardo più 2,5%, UbiBanca più 2,40%, Azimut più 2,20% come Brembo, Campari più 2% come Unicredit e Ferragamo. Bene anche un titolo come Fincantieri, tra l'altro oggi è arrivata l'accordo per il 66,6% di STX France. Unipol la citavamo, segnalo il fatto che oggi c'è un'intervista su Sole 24 Ore in cui il numero uno di Biper, Vandelli, dice che Biper con Unipol crescerà nel settore da anni. bene Unicredit, sta per partire, come ricordavamo il titolo, più 2% la cessione di non performing loans, quindi di sofferenze, per oltre 3 miliardi. Ferrari meno 1,97, Saipem meno 0,60, migliori e peggiori, Lucisano di nuovo fortissima, 21,40%, Ecosantec più 17%, Clabo più 12%, fronte opposto Energy Lab meno 7,30, Modelleria Brambilla meno 3,50, Mondo TV meno 3,50, e sostanzialmente questa è la situazione, anche se oggi il tema è quello anticipato da Sole 24 Ore, che Bruxelles, la Commissione Europea, insomma, chiederà 1 miliardo di più per concedere allo Stato italiano in via libera a fare l'operazione da 6,4 miliardi di euro sulle due banche vente, Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Luca Davide, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Una nota a chi mi dice: lei non può offendere tutte le sere le piccole banche. Guardi, io non offendo mai né tutte le sere le piccole banche, ho solo detto che nella retorica di questi anni, dove la piccola banca del territorio fosse più pura della grande colosso bancario, è andata a farsi friggere con quello che è capitato. Ok, lo stesso ex numero uno della Monte dei Paschi, attualmente Popolare di Vicenza, Fabrizio Viola, qui ha detto che a Monte dei Paschi ha trovato una situazione migliore, tra virgolette, rispetto a Popolare di Vicenza e Veneto Banca, perché almeno lì al monte non avevano fregato gli sportellisti e correntisti, cosa che invece puntualmente hanno fatto le due venete, facendo comprare azioni a 67 euro, poi valore zero, l'abbiamo spiegata 1000 volte, con commissioni anche, visto che mi provocate sul territorio, commissioni molto forti in quel territorio, anche da parte di della Popolare di Vicenza. Adesso vi arriverò. Però Luca Davi, che cosa, perché questa mossa sorpresa della BCE, di Bruxelles, della Commissione, che chiede 1 miliardo ai privati e quindi fa scendere il contributo dello Stato da 4,7 a 3,7 miliardi. Sì, sostanzialmente la strada verso il salvataggio delle due banche venete si sta rivelando ogni giorno sempre più ripida, sempre più complicata. Perché? Perché Bruxelles, in particolare la cosiddetta DG Competition, cioè l'authority che controlla e verifica la correttezza e la bontà delle operazioni, in particolare di salvataggio da parte dello Stato, ha ravvisato un problema nella spartizione dell'ammontare che servirà a mettere in sicurezza queste due banche. Rimane fermo il totale, cioè 6,4 miliardi, ma vuole un maggiore apporto da parte degli investitori privati. Quindi sostanzialmente ha chiesto che almeno 1 miliardo arrivi da qualcuno che non sia lo Stato, che infatti ridurrà il proprio contributo da 4,7 a 3,7, non sarà sicuramente, almeno al momento, gli investitori di bond subordinati che rimangono Atlante appesi. Non più soldi. E il problema è appunto Atlante, perché si guarda sempre a questo fondo con partecipato dalle banche, ma di fatto non ci sono più soldi. Ci sono stati contatti molto frenetici nelle ultime ore, si sta cercando un contributo e si stanno contattando le diverse banche italiane per verificare la fattibilità di questo investimento. L'unico spazio che si sta provando a esplorare è quello di un possibile contributo del fondo volontario, cioè di fatto è il braccio volontario del cosiddetto fondo interbancario per la tutela dei depositi. Ma anche qua, visto che appunto il nome è volontario, bisogna vedere se le banche sono disponibili. Qualcuna, soprattutto le più grandi, si stanno un attimo facendo i conti in tasca, le piccole analogamente. Oggi ad esempio l'amministratore delegato Vandelli ha lasciato intendere che insomma gli spazi di manovra sono molto limitati. Si vedrà nelle prossime giornate qual è il nodo di fondo, dov'è che diciamo Bruxelles ha valutato. Sostanzialmente la novità è che ha chiesto di svalutare in maniera netta, immediata, l'ammontare dei crediti deteriorati che hanno in pancia queste banche. Sono circa 9,6 miliardi che sono accantonati già circa al 60% da parte delle due banche venete, però parrebbe che Bruxelles abbia chiesto sostanzialmente come se questi crediti dovessero essere venduti immediatamente, cioè domani, e questo quindi al 20% è, diciamo, massimo. Che insomma, come dire, le stime che stanno circolando sul mercato e fanno un pochettino paura sono stime piuttosto basse, anche al di sotto del 18-20%, che inizialmente sembravano già un livello abbastanza basso. Non ci sono conferme al momento su questa cosa, ma sicuramente questo non può far piacere a nessuno nel sistema bancario italiano, e questo si vedrà nei prossimi giorni. Sì, qui si dovrebbe aprire anche una partita politica, a mio avviso, perché visto che, come ricordavamo, quando si poteva fare la Germania 114 miliardi, l'Olanda 35, la Spagna 100 miliardi di prestito, cioè tutti hanno sistemato le loro sofferenze, adesso che tu su una vicenda che si sta chiudendo vada Cioè, forse il nostro ministro dell'economia si può anche far sentire, prego. La notazione che si può fare in questo caso è che la DG Competition è l'unica tra le tre autorità, BCE, EBA e appunto DG Competition, che è di nomina politica di fatto. E questo ricordiamolo, perché mentre le altre due sono almeno tecniche, almeno formalmente, almeno formalmente. Allora, vedremo gli sviluppi anche la prossima settimana. Intanto grazie a Luca Davi. Grazie a voi. A chi mi parlava del territorio, voglio ricordare solo due piccole cose, sono tutte coincidenze. Quando la Banca d'Italia invia i primi ispettori alla Popolare di Vicenza nel 2001, pochi anni dopo uno degli ispettori che firma la verifica viene chiamato dalla Popolare di Vicenza come responsabile dell'audit interno. Allo stesso modo la Popolare di Vicenza va a lavorare anche Andrea Monorchio dopo 13 anni come ragioniere generale dello Stato, che gli fa insomma da ambasciatore di Zonin, sempre nella Popolare di Vicenza. Faccio notare che l'allora procuratore capo, dopo che la procura apre un'inchiesta nel 2001, Antonio Foiadelli prende a sé il fascicolo, chiede l'archiviazione, il GIP Cecilia Carreri respinge l'archiviazione e ordina l'imputazione coatta per Zonin, ma nel 2005 viene travolta da uno scandalo che poi si è rivelato una bufala, un nulla, nato da una pubblicazione di una sua foto sul giornale locale. Zonin ha non luogo a procedere, il Foiadelli però, capo procuratore, lascia la magistratura e tre anni dopo Zonin lo chiama nel CDA della Nord-Est Merchant Bank. Potrà andare avanti con Giuseppe Ferrante, ex capo del nucleo di polizia tributaria di Vicenza, già dal 2006 responsabile della direzione antiriciclaggio della banca, cioè della Guardia di Finanza, va direttamente in banca. O l'avvocato Massimo Pecori, figlio di uno dei PM di punta della Procura Cittadina, che ottiene incarichi per l'istituto, e dei decine di avvocati che hanno lavorato per la Procura di Vicenza. Tutto agli atti, tutto regolare, tutto così. Grazie, Mauro Del Cono, Barbara Bianchi, da Sebastiano Barisoni, l'augurio di una buona serata. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Radio 24, libera la voglia di fare.